Salva Danaio di Deborah Rosciani. Ebbene sì, siamo in diretta anche oggi. Buongiorno da Deborah Rosciani, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Salva Danaio. Speriamo in questo modo di poter contribuire anche a fare un po' di compagnia a tutte quelle persone che, a causa del maltempo che sta imperversando in molte zone d'Italia, oggi hanno dovuto rinunciare a una giornata di vacanza magari sotto il sole. E allora noi della radio ci siamo sempre, noi di Salva Danaio ci siamo. Di che cosa abbiamo deciso di parlare oggi? Come si fa a far quadrare il bilancio familiare e vivere sereni? Se si ha una buona dose di denaro a disposizione, i conti quadrano, che è una meraviglia, direte voi, ci sembra del tutto ovvio e naturale. Il problema è che invece ci confrontiamo oggi con una situazione che vede qualche difficoltà per molte famiglie che non hanno redditi adeguati alle proprie esigenze. Ci sono molte famiglie, ne abbiamo parlato spesso, che hanno visto improvvisamente cambiare il proprio tenore di vita quest'anno, perché magari qualcuno si trova in mobilità, in cassa integrazione, qualcuno addirittura ha perso il lavoro. Però lasciando magari da parte le situazioni più problematiche, non è detto che sia sempre così. A volte non si ha la capacità o anche la voglia di fare una buona gestione delle entrate e delle uscite finanziarie delle famiglie. E allora cosa succede? Che l'imprevisto ci getta nel panico, e allora per questo motivo è bene avere un controllo attento del bilancio familiare. Questo è il tema sul quale ci confrontiamo oggi con Giuseppe Altamore, che è un collega, direttore responsabile del mensile Club 3, cura le rubriche di servizio dalla parte dei lettori di Famiglia Cristiana ed è anche l'autore del libro Il bilancio familiare, edito dal Sole 24 Ore e Giunti Editore, in libreria da qualche giorno. Giuseppe, benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno, grazie per l'invito. Allora, noi oggi lanciamo questa, chiamiamola così, non tanto provocazione, questa indicazione ai nostri ascoltatori, che oggi possono intervenire in diretta chiamandoci all'800 24 00 24 o scrivendoci al 349 238 6666. Come organizzate il bilancio familiare? Guardate solo alle esigenze dell'immediato o guardate anche in avanti, in prospettiva, per pianificare il vostro futuro e quello dei vostri figli? Come funziona a casa vostra? Ci si siede intorno ad un tavolo e si organizza il rapporto fra entrate ed uscite, oppure si viaggia sull'onda della quotidianità? Insomma, come gestite la vostra azienda famiglia? Raccontatecelo, perché naturalmente le indicazioni che Giuseppe dà nel suo libro sono tante, sono indicazioni di natura prevalentemente pratica, però magari c'è qualche sorpresa anche da parte vostra, magari qualche aspetto che nel libro sfugge. Sono sicura che insieme a Giuseppe saremo molto felici anche di cogliere la vostra quotidianità e i vostri orientamenti pratici. Allora, Salva Danaio oggi è aperta, anche perché è aperta la borsa, per cui andiamo un po' a vedere in questa giornata di festa i listini del vecchio continente, di festa italiana, come si stanno comportando in tutta Europa. Dopo il rally di ieri la giornata era partita male, adesso si sta mantenendo negativa solo a Londra, meno 0,89%, mentre c'è qualche piazza che tenta invece di virare, di modificare la sua direzione. Infatti Parigi adesso sulla parità, Francoforte è addirittura positiva, sta guadagnando lo 0,18%, stamattina Milano in avvio perdeva più di mezzo punto percentuale, adesso sta risalendo la china, e il nuovo indice, il FTSE MIB, che ha esordito ieri al posto dell'S&P MIB 40, sta perdendo adesso lo 0,14%, mentre gli altri indici, il FTSE Italia Mid è in rialzo dello 0,92%, quindi tutti gli altri, l'All Shares è sulla parità. Non so ad indicarli tutti, perché magari, visto che è un cambiamento che è avvenuto da ieri, genera solo un po' di confusione nei nostri ascoltatori. Sappiate che però da ieri, come abbiamo detto più volte, ci sono nuovi indici, nuovi panieri, che sono il frutto del completamento, dell'integrazione con la borsa inglese. Quali titoli stanno sostenendo Milano? Pirelli più 3,61%, Campari più 3,45%, Impregilo più 2,50%, Buzzi Unicem più 2%, Lottomatica più 1,89%, STM più 1,64%, Fiat sta tentando di riportarsi sugli 8 euro più 1,54%. Oggi è molto ben tonico tutto il settore auto in tutta Europa, anche perché si è finalmente definita la soluzione per il destino di General Motors. È una soluzione ovviamente che vede la bancarotta, quindi il Chapter 11, il ricorso all'amministrazione controllata, ma è comunque una situazione comunicazione chiara e in genere la chiarezza dal mercato viene premiata. Fiat però oggi balza anche sull'onda dei dati sulle immatricolazioni che sono stati diffusi ieri sera, che vede per il Lingotto un nuovo incremento della quota di mercato nel nostro paese. Andiamo invece a vedere i titoli con il segno meno. Telecom sta perdendo il 2%, il gruppo delle telecomunicazioni ha ricevuto una riduzione di giudizio da parte degli analisti di Bernstein, Intesa meno 1,62, Snam Rete Gas meno 0,98. UbiBanca meno 0,8, meno 0,8 anche per il Banco Popolare, meno 0,7 per Alleanza, meno 0,6 per Unipol, meno 0,5 per Mediolanum e la Popolare di Milano, meno 0,5 anche per Prismian, quindi complessivamente avete visto una giornata storta per i titoli del settore bancario ed assicurativo. L'euro sul dollaro, in recupero il biglietto verde, siamo a 1,41,82 con il petrolio che si sta riavvicinando pericolosamente ai $70 al barile, la benzina se n'è ben accorta, il carburante insomma se n'è già accorto in questi giorni, ovviamente non può che approfittare di farlo, soprattutto quando ci sono le giornate di festa, ci sono grandi transiti di vetture su tutte le strade. Dicevamo, il biglietto verde in recupero sull'euro a 1,41,84, il petrolio è a $68 al barile. Allora, lasciamo la borsa, andiamo subito invece alle altre borse, quelle della spesa, ma non solo. Roberto Altamore, sì, Giuseppe, Roberto, non so per quale motivo mi sia venuto, guarda, stavo proprio distratta, Giuseppe Altamore. Allora, dobbiamo presentare questa mattina questo libro, ma soprattutto dare qualche indicazione pratica a quelle famiglie che magari vorrebbero farlo, ma non sanno dove cominciare per poter organizzare l'azienda famiglia, perché il presupposto è proprio questo, la nostra vita corrisponde proprio ad una piccola azienda da gestire, no? Perché ci sono delle entrate, delle uscite, per cui l'economia e la nostra vita, lo dicevamo anche ieri in questa puntata speciale che abbiamo organizzato dal Festival dell'Economia di Trento, ma insomma la famiglia è proprio un'azienda. Credo che il tuo libro muova anche da questo presupposto. Assolutamente sì, la famiglia è come una piccola azienda, sempre più complessa, con una serie di scadenze da rispettare, entrate e uscite da gestire, insomma con una contabilità come una piccola azienda. Però prima una piccola premessa. Su 22 milioni di famiglie esistenti oggi in Italia, più o meno sono 22 milioni, secondo i dati di Banca Italia, un terzo non riesce a risparmiare e questo dato addirittura è vecchio di un anno, in quest'ultimo anno le cose potrebbero essere cambiate in peggio, certo. E quindi oltre 7 milioni di famiglie non ce la fa a mettere da parte qualcosa e di questi 7 milioni ce n'è ancora un 3 milioni e mezzo circa che sono sovraindebitate, no? Quindi diciamo che riuscire a mettere le mani sul proprio conto e controllare bene entrate e uscite è veramente di fondamentale importanza, perché anche quelle famiglie che si trovano in difficoltà, diciamo con una razionalizzazione di tutto quanto, potrebbe riuscire a cavarsela, insomma, comunque a stare un pochino meglio. Anche se poi dobbiamo anche dire, Giuseppe, che nonostante questa situazione, che come dicevi tu probabilmente sarà già anche cambiata, forse in peggio nel corso dell'ultimo anno, nonostante queste considerazioni, gli italiani vengono comunque ancora considerati un popolo di grandi risparmiatori, e sicuramente questo è vero se li andiamo a paragonare con la popolazione americana, con quella anglosassone, che invece stanno pagando un prezzo durissimo per questa crisi, che è stata generata proprio dal fatto che invece ci si indebita un po' troppo allegramente in altre parti del globo. No, questo è verissimo, siamo comunque un popolo di risparmiatori, lo abbiamo dimostrato in questi ultimi tempi, appunto con la crisi resistiamo meglio di altri, dipende dal sistema paese che ha favorito, diciamo così, l'idea del risparmio. Ricordiamo, soprattutto per quelli che hanno una certa età, che una volta addirittura la giornata mondiale del risparmio veniva festeggiata a scuola e si regalava ai bambini un salvadanaio, quindi questo era già un incentivo a considerare il risparmio un valore fondamentale, che resiste ancora oggi per fortuna e che addirittura è uno dei principi della nostra carta costituzionale. Le banche istituzionalmente devono garantire, diciamo così, il risparmio di tutti e quindi anche quando ci inviano a casa, diciamo, una disdetta o modificano unilateralmente le condizioni di conto, lo fanno proprio in ragione di questo principio. Infatti, tra l'altro, poi lo racconteremo ai nostri ascoltatori, il tuo libro si suddivide proprio in quattro grandi macro aree, chiamiamolo così, prima parte il tenere sotto controllo le spese, nella seconda parte invece ci sono tutti i suggerimenti per fare il proprio check-up finanziario, terza parte risparmi ed investimenti, quarta parte parte, questo è molto importante, assicurarsi il futuro. Giuseppe, allora io ovviamente scorrendo il libro lo racconteremo e ti chiederò anche qualche lume in più rispetto ad alcuni punti, però come tu sai la nostra trasmissione è aperta agli ascoltatori e siccome stanno già cominciando a chiamare, e io lo dicevo un po' inaspettatamente perché è la giornata di festa, invece molti sono in ascolto, questo ci fa piacere, allora io direi di sentirli subito, così ci aiutano un po' a vivacizzare la nostra trasmissione di questa mattina. E abbiamo un uomo in apertura, Giuseppe, dalla provincia di Pisa, che ringrazio. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno, buongiorno. Allora, lei sì, fa tutto... è lei il coordinatore delle finanze di casa o si fa aiutare da sua moglie? Perché il fatto che abbia chiamato un uomo in apertura già un pochino... Ecco, volevo premetterlo, no, io sono l'ideatore, la cosa l'ho sempre fatta, ho sempre avuto il pallino di mantenere le spese, anche perché... viene comunque da quella che è l'educazione dei miei genitori, però diciamo quello che ottimizza la gestione del tutto è sicuramente mia moglie. Noi in base in pratica a quelle che sono le spese che abbiamo sostenuto negli anni passati, in particolar modo nell'ultimo anno, programmiamo quello che è il successivo anno. Chiaramente parte dalla semplicità delle spese, quelle fisse, che sono il mutuo, che sono le automobili, che sono queste cose, ci movimentiamo su queste, quelle, quindi quelle più variabili, cerchiamo di gestirle, di prevederle, insomma. Certo. Beh, quindi evidentemente Giuseppe, per fortuna per lei, io le auguro di mantenere un tenore di vita di questo tipo a lungo, per sempre, comunque diciamo ha una vita abbastanza tranquilla, stabile, quindi non prevede grandi stravolgimenti. Comunque, per esempio, siccome una parte del libro di Giuseppe Altamore è dedicata proprio a questo, al futuro, lei per esempio come pensa anche al suo futuro previdenziale, al suo futuro finanziario? Ma il futuro previdenziale è una bella incognita, perché comunque io ho un lavoro, diciamo, che mi permette di guardare in un'ottica di una pensione, seppur prospettica e lontana. Mia moglie invece, diciamo, essendo una precaria, appartenendo al mondo della ricerca italiana, che quindi è un precariato permanente praticamente. Chiaramente per lei noi abbiamo ipotizzato un fondo pensione, un fondo pensionistico, in una speranza che poi magari questo precariato in qualche momento di sbandamento politico diventi invece la ricerca diventi qualcosa di più importante rispetto a quello che è oggi. Giuseppe, comunque, sì, la ringrazio molto per la sua testimonianza. Aveva qualche curiosità da togliersi con l'esperto insomma della gestione azienda famiglia, perché ne ha scritto. Ma io, ecco, la cosa che mi ha fatto sì di fare la chiamata è quella che, appunto, come faccio io, lui partiva dalle spese regresse, quindi insomma come gestire poi oltre, io il mio periodo di preveggenza è l'anno, non di più. Come andare oltre, diciamo, a questo 6-12 mesi? Grazie Giuseppe. Allora, vogliono essere molto ben orientati i nostri ascoltatori, perché tra l'altro, Giuseppe, molte volte c'è anche un po' di resistenza, no, a fare un'analisi della situazione finanziaria, perché non sempre ci piace occuparci di economia, viene visto come un tema difficile, un tema scomodo, al quale si guarda con tanto pudore, poi però, come non finirò mai di dire, l'economia è alla base della vita di tutte le nostre giornate, della nostra quotidianità, e come dici tu proprio a pagina 24, il quaderno dei conti di casa, non è complicato fare un po' di ordine fra i conti della nostra famiglia. Giuseppe utilizza una ricetta molto semplice, guarda allo storico della sua vita, al suo recentissimo passato, ma anche un po' più indietro, insomma. Certo, beh, la prima operazione da fare sicuramente è quella di organizzare un bilancio familiare, un po' sul modello di quello che accade per le imprese, ma in maniera molto semplice, dividendolo in due parti, la parte patrimoniale e la parte del conto economico. Ora, si scopre a volte, facendo un elenco, nella parte patrimoniale bisogna mettere tutta la ricchezza, i beni immobili, tutto ciò che si possiede, e si scopre molto spesso che in realtà, facendo la somma, poi si ha qualcosa in più rispetto a quello che uno aveva immaginato. Chiaramente ci sono, io poi lo spiego molto bene nel libro, ci sono dei conti da fare, per esempio se uno ha un quadro di un certo valore in casa, lì deve fare un'operazione, perché se il quadro lo deve vendere in una situazione di emergenza, ecco, lì c'è... ricaverà un po' meno rispetto a quanto non può fare in un momento più sereno, certo. Sicuramente, ci sono dei calcoli da fare, ma comunque vale sempre poi alla fine il buon senso. Poi c'è la parte invece del conto economico dove bisogna mettere le entrate e le uscite e regolarsi di conseguenza. Però questa operazione semplice che già ci impone di tenere conto effettivamente di ciò che noi incassiamo e delle uscite fisse, per esempio, e comincia a farci ragionare in una maniera diversa, a cambiare la prospettiva. Io la mia impressione è che generalmente le famiglie vanno avanti un po' ad occhio, no? Non tengono neanche un taccuino delle proprie entrate, delle proprie uscite, di ciò che spendono, perfino raramente si ricordano di quanto spendono, non so, per il mutuo. Oppure invece magari lo importante. Fa solo un componente della famiglia, Giuseppe, viene addirittura considerato un po' come lo scocciatore, no, di casa, quello che è così, ha questa fissa di tenere sotto controllo i conti e magari viene considerato un po' anche il disturbatore del nucleo familiare. Esatto, è un po' così. E poi chiaramente oggi con i sistemi che abbiamo a disposizione, chi sa usare per esempio un foglio di Excel ci mette poco a organizzare un quaderno dei conti di casa, ma va bene anche il semplice taccuino. Esatto, anche un foglio di Word, dai, se riusciamo a scrivere come meglio sappiamo, non è necessario utilizzare Excel, perché per esempio io, adesso faccio sempre questo esempio, che sono una che si tiene sotto controllo in maniera abbastanza seria e rigida i conti, me lo faccio con il taccuino, insomma il conteggio, non vado ad utilizzare Excel, insomma se si vuole lo si può fare. Allora volevo farvi sentire una piccola pillola tratta dal libro, ne abbiamo scelte due o tre. La prima è proprio quella sulle voci da monitorare. Indubbiamente, tutte le voci di spesa di una famiglia sono numerose e tutte importanti. Ce ne sono alcune, tuttavia, che vale la pena tenere sott'occhio perché hanno costi nascosti, come il conto corrente e le carte di credito o di debito, oppure perché rappresentano un'importante voce di uscita, quindi vanno a incidere in maniera consistente sul bilancio familiare. L'auto ne è un tipico esempio. Diminuire i costi e tentare di aumentare la quota destinata al risparmio è un'operazione difficile ma non impossibile. L'importante è non lasciarsi sfuggire la situazione di mano. Chi ha già iniziato a tenere sotto controllo il proprio bilancio farà meno fatica perché ha già individuato i punti deboli e le falle che fanno perdere troppo denaro inutilmente. Prima di andare in pausa per sentire un breve giornale radio, sentirei Antonella da Ferrara. Antonella, buongiorno. Salve, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a lei. Io chiamo da Ferrara, ho 33 anni, sono una mamma di un bimbo di 4 anni, sono un'insegnante statale, pertanto le lascio immaginare. Insomma, stipendio è quello che è. Esatto, sono in affitto, sono separata, pertanto insomma, ho tutti gli oneri. I costi raddoppiano. Però riesco onestamente ad arrivare a fine mese con decoro, diciamo così, per usare un'espressione decisamente eufemistica, per non dire che comunque si affrontano tantissime rinunce. Mm-hmm. Qual è quella che le pesa di più, Antonella? Oddio, anche se magari mettendo teatro, teatro. Il teatro, quindi insomma un hobby, però avendo un bel bimbo di cui occuparsi, immagino che poi le gioie siano, come dire, non paragonabili magari alla perdita di un hobby, ma questo ovviamente è una considerazione che non c'entra niente. No, stiamo parlando di denaro questa mattina. Assolutamente sì, il discorso delle gioie sarebbe un capitolo assolutamente a parte. Ma infatti sì. Io però io pongo l'accento sulle potenziali forme di risparmio che sono impraticabili. Cioè le dico, io ho dovuto cambiare macchina perché la mia era oramai era un Euro 1, pertanto avevo spesso le zone a traffico limitato durante le giorni festivi, eccetera, sempre chiuse in città. Quindi una spesa eccetera. Che andava assolutamente fatta. Esatto, andava fatta, ho dovuto cambiare macchina, però le dico, quando anche avessi voluto, una cosa che tra l'altro mi piacerebbe fare, usare i mezzi pubblici, non avrei mai potuto fidarmi, perché noi qui, almeno io le parlo di Ferrara, abbiamo una rete di collegamento veramente carente in quanto a struttura, in quanto ad organizzazione. Io ho preso un mezzo pubblico qualche mese fa e mi sono saltate 3 fermate. Sì. Per cui ho dovuto aspettare 1 ora e 20. Se avessi dovuto timbrare un cartellino, insomma, sarei stata passibile di ritardo. Antonella, guardi, rimanga in linea. A Salvadanaio oggi parliamo del bilancio familiare. Il pretesto è il libro che è uscito da qualche giorno di Giuseppe Altamore. È un un collega, direttore responsabile appunto del mensile Club 3, oltre che autore di una serie di rubriche con suggerimenti pratici su famiglia cristiana, ma per il Sole 24 Ore ha scritto diverse cose, in particolar modo ha scritto questo bilancio familiare uscito qualche giorno, edito dal Sole 24 Ore da Giunti Editori. Ci sono tutte le indicazioni per poter gestire al meglio l'azienda famiglia, ma noi stiamo suffragando un po' le tesi che sono esposte in questo libro anche grazie alle testimonianze dei nostri ascoltatori. Volevo rivolgere un'ultima domanda ad Antonella, eravamo rimasti a lei prima della nostra pausa, un'insegnante, mamma di un bambino piccolo, poco più che trentenne, ha dovuto cambiare la macchina perché con i mezzi pubblici in città non si riesce a circolare, deve rinunciare a molte cose fondamentali perché ha una vita monoreddito. Le volevo chiedere, Antonella, l'ultima cosa, lei ha poco più di 30 anni, è giovanissima, deve comunque pensare ad integrare la sua pensione perché inevitabilmente la sua pensione sarà molto diversa fra 30 anni rispetto a quella che percepiscono adesso gli insegnanti che stanno andando in pensione. Ci riesce a fare questo pensiero? Guardi, il pensiero assolutamente sì, ma nell'immediato e nella concretezza del menage familiare assolutamente no. Mm-hmm. Le spiego, noi come insegnanti abbiamo un il fondo pensione che Espero. Sì, un fondo, Espero, esatto, ma onestamente è abbastanza nebuloso come discorso, nel senso che noi non siamo adeguatamente informati e soprattutto pare sia un discorso integrato, misto, che comunque insomma da quello che mi è parso di capire, non essendo un economista quindi ignorante in materia, è comunque una forma quasi privata, no? Molto assimilabile a un discorso di assicurazione sulla vita, ecco, diciamo così, con l'unica garanzia che essendo statale forse dovrebbe essere un attimino più appetibile rispetto alle altre forme di previdenza sul mercato. Antonella, no? Io la ringrazio molto perché ho altri ascoltatori, abbiamo dato tanto spazio, comunque il suo è un caso molto interessante, quasi da manuale, dicevamo, Giuseppe Altamore. Ci siamo soffermati, mi sono voluta soffermare sulla parte della previdenza con Antonella perché so che tu nel tuo libro a questo tema dedichi molto spazio. La categoria degli insegnanti ha un fondo pensione, però come hai avuto modo appunto di sentire sulla previdenza complementare abbiamo dedicato centinaia di trasmissioni, non c'è grande fiducia, certamente poi i rendimenti come sono andati quest'anno hanno contribuito un po' ad alimentare l'incertezza e la fiducia verso questi strumenti che dovrebbero nel futuro integrare la nostra pensione pubblica. E cosa ti suggerisce il caso di Antonella? Monoreddito, mamma sola, in affitto, insomma tante problematiche tutte insieme. Un bilancio così risicato, perché immagino che un insegnante abbia uno stipendio di poco superiore ai 1000 euro al mese, 1000-1200 euro al mese. C'è poco da fare, però sicuramente qualcosina si può ancora rosicchiare, per esempio sui trasporti. Ecco, la questione dell'automobile è molto importante, lì si può risparmiare tantissimo a partire dalle assicurazioni, scegliendo per esempio l'assicurazione online o le assicurazioni al telefono. Certamente la cosa migliore sarebbe abolire del tutto l'automobile in questa situazione particolare. A patto di avere una rete di servizi pubblici efficiente e sempre disponibile. Che non abbiamo, ecco. In Italia, però c'è qualche sistema alternativo. Io per esempio nel mio libro parlo del car sharing, che è un sistema poco sviluppato in Italia, che però potrebbe dare veramente una svolta al sistema di trasporto pubblico o privato, perché il car sharing, lo ricordo, è la possibilità di condividere con altri utenti la stessa automobile. Per esempio Legambiente ha costituito una società apposita, si paga un abbonamento per famiglia di circa 100 euro all'anno, a cui bisogna aggiungere poi 1 o 2 euro all'ora nella fascia compresa per esempio fra le 7 e le 22. Ecco, ci sono dei sistemi che faticosamente... Ma per esempio il car sharing, Giuseppe, perché poi questa non è una informazione di secondaria importanza, è secondo te un servizio che è possibile trovare in tutte le città o solo le città più organizzate hanno la disponibilità di questo servizio? Solo nelle città più organizzate per il momento, quindi nelle grandi città. E per sapere dove è disponibile questo servizio basta collegarsi al sito www.carsharingitalia.com, dove ci sono tutta una serie di informazioni e altri siti a cui poi si può ricorrere per eventualmente tentare di avere questo servizio, che può essere sia gestito da privati sia appunto da un'organizzazione tipo Legambiente, che non è proprio a fine di lucro. Infatti. È una possibilità, una tra le tante possibilità. La pensione, Antonella. La questione previdenziale lì è più complicato, perché a parte la pensione sua, che quando ci arriverà poi sarà veramente piccola, perché secondo il libro bianco del Ministero del Welfare avrà intorno al 40% dell'ultimo stipendio, quindi c'è una drastica riduzione del tenore di vita. Sì, sì, infatti. Per far fronte a questa riduzione, la possibilità che ci è stata offerta è quella di trasferire il TFR nei cosiddetti fondi pensioni chiusi. Però io aggiungo che, appunto, alla luce anche dei risultati di borsa di quest'ultimo anno, che sono stati un po' deludenti, che comunque si sono ripercorsi anche sui rendimenti dei fondi pensioni, forse ci si può tenere, possiamo tenerci il TFR, che ha avuto un rendimento garantito per legge, e poi è una cosa poco nota, a un certo punto, quando uno deve andare in pensione, destinare tutto il TFR a una forma di pensione integrativa in un'unica soluzione. Ecco, questo può essere una possibilità. È un discorso che richiederebbe un'intera puntata e, come sanno bene i nostri ascoltatori, noi al tema della previdenza complementare, per coloro che ci credono, abbiamo dedicato tante puntate, soprattutto quando 2 anni fa c'è stato dato il famoso semestre di possibilità per fare la scelta se mantenere il nostro TFR in azienda o devolverlo, che non è forse la parola corretta, conferirlo a forme di previdenza complementare. Certo è che Espero è l'ultimo fondo di categoria partito, e ha ragione Antonella quando dice non abbiamo ancora avuto delle fonti autorevoli che ci abbiano saputo spiegare bene il funzionamento, le linee di investimento, insomma come funziona esattamente. Allora, anche dalla indicazione di Alessandri, di Antonella da Ferrara, noi vi prometto che torneremo di nuovo sul tema della previdenza complementare. C'era anche la storia di copertina di Plus 24 di sabato scorso, dedicata proprio a questo argomento, se può essere un'informazione utile. E allora sentiamo altri ascoltatori. Alessandro da Pescara, buongiorno. No, senta, io devo fare prima una piccolissima premessa, che sì, tutto ciò che io faccio per pianificare le entrate e le uscite mi è anche agevolato e consentito dal fatto che, non, pur essendo un pensionato, non sono un pensionato minimo. Quindi è evidente che un discorso è pianificare entrate, uscite e quant'altro con 1.000 euro. Certo. Differente è, ed è il mio caso, doverlo pianificare con un importo di ben altra portata. Sì, ma siamo partiti proprio da questo. Forse Alessandro si è perso la primissima parte della trasmissione. Non è possibile, in linea di massima, generalizzare la pianificazione se non si fanno queste premesse. Un precario certamente vive alla giornata. Certo, certo. Diciamolo così. Cosa faccio? Cosa ho fatto, per meglio dire, per poter regolare e vivere con una certa tranquillità la mia terza età? Da qualche anno, da quando si è cominciata ad instaurare questi sentori di crisi, sì, mentre prima viaggiavo, come si dice, a naso, a orecchio, ho cominciato a indicare all'inizio dell'anno quelle che erano le entrate certe. Per entrate certe intendo la mia pensione, le entrate eventualmente di un immobile o due che ho, quindi diciamo al netto delle spese sono X, e quelle che sono le entrate derivanti dagli investimenti in obbligazioni statali che ho fatto. Sì. Premetto che ho fatto obbligazioni statali mentre prima mi dilettavo con borsa. È andato un po' più sul sicuro adesso. Magari ha rinunciato ad un po' di rendimento perché le obbligazioni. Ecco, però. Guarda, anziché rischiare di guadagnare 10 o perdere 10, mi accontento di guadagnare. Di portare 10. A casa 5, 4, forse anche 3, però. Detto questo, pochi maledetti e subito. Pochi maledetti e subito. Questo importo viene praticamente determinato da queste tre voci principali. Le uscite quali sono? Quelle che sono. Me le può dire sinteticamente, Alessandro, perché ho tanti altri ascoltatori. Prego. Sì. Le uscite sono quelle certe, aumentate prudenzialmente del 10% rispetto all'anno precedente. Quali voci di spesa sono cambiate, Alessandro? Quali uscite sono aumentate nella sua azienda famiglia? Sono aumentate quasi tutte le bollette. Eccolo là. Sono certo che ovviamente io non posso prevedere, perché se il petrolio va su e il gestore mio mi aumenta la bolletta, questo non lo so. Allora lo cerco di farlo prima. Le assicurazioni, anche se in questi ultimi anni hanno subito un rallentamento, però l'aumento c'è sempre stato, sì. Quasi sempre, anzi direi. Terza per voce? Prego? Quali altre voci è aumentata? Secondo me sono aumentate quelle che sono le spese generali di condominio, perché sono tutte legate. Sono legate l'acqua, certamente. Ha avuto la Tarsu, ha avuto delle impennate, direi a mio avviso anche inspiegabili. E questo riscontrabile in due città in cui vivo, perché io vivo a Pescara ma ho casa a Milano. Alessandro, quindi... sì, io devo salutarla perché sennò lei veramente mi impegna, io l'ascolterei molto volentieri tutta la trasmissione, però abbiamo capito insomma quello che fa. Anche lei prende un po' tutte le macro spese della sua famiglia e ha individuato anche quelli che sono i trend economici a cui queste spese possono essere direttamente collegate, pertanto possono essere assolutamente variabili, di conseguenza si comporta nella gestione del suo budget. Allora Giuseppe Altamore, abbiamo sentito il caso di Alessandro da Pescara, che ovviamente lui ha fatto una necessaria premessa: non tutti possiamo comportarci nella gestione della nostra piccola azienda nello stesso modo, io ho entrate di un certo tipo, ma nonostante questo ha dovuto comunque cambiare un po' sia le previsioni per le spese future, perché lo scenario economico intorno a noi è cambiato prepotentemente e questo ha portato l'aumento della benzina, l'aumento delle bollette e quant'altro, anche se adesso sono ritornato un pochino a scendere per fortuna. E insomma, il caso di Alessandro, che è molto attento, cosa ci suggerisce? Il signor Alessandro sicuramente sta facendo un buon lavoro, direi che è un radioascoltatore da manuale, perché ha suddiviso molto bene le entrate e poi ha razionalizzato le uscite aumentandolo di un 10% da un anno all'altro, proprio in ragione degli aumenti che ci sono stati negli ultimi tempi. La cosa che mi ha colpito però del signor Alessandro, che è un discorso che si può ampiamente generalizzare, è l'aumento delle bollette, cioè delle tariffe pubbliche, perché è quello che ultimamente incide molto sul bilancio delle famiglie. Mentre nel campo delle assicurazioni e per esempio della telefonia, faticosamente la liberalizzazione ha raggiunto dei livelli ragguardevoli, insomma, comunque le cose stanno migliorando, oggi è possibile effettivamente risparmiare e scegliere la polizza meno cara. Per quanto riguarda le tariffe pubbliche, per esempio quelle dell'acqua, non c'è nessuna possibilità di risparmiare, anzi queste tariffe negli ultimi anni sono aumentate mediamente, tra acqua e altre cose, del 50%. Non a caso insomma c'è chi spinge, lo fa Confindustria ma lo fanno tanti altri osservatori, anche verso la liberalizzazione dei servizi pubblici locali, perché questi veramente pesano sulle famiglie e sulle imprese in maniera non indifferente, Giuseppe, giusto? Pesano in maniera non indifferente, le previsioni purtroppo non sono positive, perché nei prossimi anni, per esempio limitandoci al caso dell'acqua, le tariffe aumenteranno e come. In Italia paghiamo mediamente 1,27 € al metro cubo per il ciclo idrico integrato, mentre in Europa questa tariffa arriva addirittura al doppio, per non parlare del caso di Berlino, dove addirittura si spendono 4,50 € al metro cubo. Quindi le società private che stanno investendo in questo settore vedono anche la possibilità di profitti futuri. È vero anche che nel passato, quando spendevamo di meno per la bolletta dell'acqua, in realtà non ci rendevamo conto che alcuni di questi costi venivano riversati sulla fiscalità generale, quindi in un modo o nell'altro li pagavamo lo stesso. Uscivano dalla porta e rientravano dalla finestra, Giuseppe, giusto? Però io qui do qualche consiglio per risparmiare. Per esempio, inserendo i riduttori di flusso, che sempre ha una sciocchezza, si riesce a risparmiare fino al 10% e anche oltre. Poi, per esempio, un buon risparmio si può realizzare non acquistando più l'acqua minerale o acquistandone meno. Se uno poi ama le bollicine, acquista un apparecchio che è un depuratore domestico, ma di quelli a filtri compositi, che costa massimo 400 €, 500 €, non a osmosi inversa. In questa maniera si ha un risparmio netto di circa 500 € all'anno. No, perché poi tra l'altro stavo così un po' ragionando su questi suggerimenti che ci stai dando, Giuseppe. Noi ne abbiamo dati tanti, soprattutto quando un anno fa c'era questo petrolio che c'era letteralmente sfuggito di mano, era $150 al barile, per cui davvero il tema della bolletta era diventato di prioritaria importanza. Il problema è che adesso è sceso sì il petrolio, anche se adesso sta ritornando un pochino a disturbarci. Non è che questo è il problema comunque del costo della bolletta, anche se è ridiventato stato un pochino più ragionevole di un anno fa non debba essere tenuto sotto controllo, cioè le buone abitudini di consumo e di risparmio energetico possono essere comunque mantenute durante tutto l'anno, anche perché poi c'è un tema un po' più generale dell'ambiente che non dobbiamo trascurare, che ci fa bene anche prendere nella dovuta considerazione. Giuseppe, volevo far sentire anche un'altra pillola prima di sentire un altro paio di ascoltatori, tratta dal libro. Questa riguarda la pianificazione finanziaria. La pianificazione finanziaria, o personal financial planning, è quel processo che dovrebbe consentire l'individuazione delle necessità finanziarie, previdenziali, assicurative di un soggetto e la predisposizione dei mezzi per raggiungere gli obiettivi prefissati. In definitiva, con una buona pianificazione dei propri risparmi e investimenti, le famiglie puntano a migliorare il benessere finanziario e la qualità dello stile di vita, a raggiungere la tranquillità economica e ad avere una visione più serena del futuro. Non può esistere una vera pianificazione se, per esempio, non si riesce a risparmiare, perché significa che si è sempre con l'acqua alla gola, disarmati di fronte a qualunque imprevisto, dall'incidente in auto al caso molto più grave di malattia. Il benessere finanziario della famiglia dipende quindi da quanto si risparmia, da come si investe e da come si spende. Per avviare questo processo di risanamento o di razionalizzazione, occorre assumere delle decisioni ottimali sulla base di scelte coerenti. Anche se il rischio è un fattore inevitabile, la pianificazione aiuta a scegliere i rischi che si intendono affrontare, quelli da evitare, quelli da trasferire assicurandosi e quelli da ridurre. 800 24 00 24, vi ricordo, anche se abbiamo ancora pochi minuti di tempo prima di concludere, è il numero verde per i vostri interventi. Vorrei sentire Roberto dalla provincia di Bergamo, perché poi insieme alla sua testimonianza, Roberto, c'è anche quella di Giuseppe da Sesto San Giovanni, che invece ci ha scritto una mail dove ci spiega tutta la sua pianificazione. Un ragazzo di 30 anni, lavora da circa 11, dice, e si è organizzato proprio con la famosa elaborazione di un file Excel dove mettere tutte le voci in entrata e in uscita. Anche lei fa così, Roberto? Sì, buongiorno innanzitutto Deborah, proprio faccio così, ma io lo faccio da quasi 10 anni. Quindi ho avuto la possibilità di accumulare dati e informazioni su un computer da più di 10 anni, e questo mi ha permesso anche, naturalmente avendo questi dati storici, di poterli proiettare per il futuro. E quindi io sistematicamente, si può dire quasi tutti i giorni, controllo quali sono le mie risorse finanziarie, ma soprattutto quali saranno le mie risorse finanziarie nel futuro. E in base a questo semplice concetto, logicamente, riesco poi a calcolare eventuali spese aggiuntive che mi dovessero incorrere, e oltretutto posso anche pianificare il mio risparmio. Roberto, tra l'altro, lei facendo questo lavoro e riguardando un po' ai suoi comportamenti del passato, è rimasto sorpreso rispetto a qualche atteggiamento che magari ha assunto e che non si ricordava, non lo so, insomma, come sulla base del suo passato, come fa poi le scelte per il futuro? Ecco, in base naturalmente al passato leggo tramite i numeri, logicamente premetto che ero dirigente d'azienda, quindi trattavo amministrazione, quindi per me era pane quotidiano, e in base appunto all'analisi delle cifre mi accorgo che c'erano certe situazioni che assolutamente non pensavo che fossero incidenti nel bilancio familiare. Ne cito una per tutte. Sì. Il conto corrente bancario è schizzato dai 10 anni a questa parte da zero, come era il costo all'inizio, a dei costi che sono astronomici. Si parla di 250-300 euro per un conto corrente normale di una famiglia. Ecco, benissimo, grazie. Quindi per il suggerimento. Che sono veramente sbalorditive, sempre che si analizzano i dati nel passato. Roberto, la ringrazio, perché allora significa che dobbiamo andare a riesplorare di nuovo il tema dei costi dei conti correnti bancari, che abbiamo trascurato, abbiamo dedicato tanto spazio ai mutui negli ultimi tempi ad altre cose, invece dobbiamo ritornare su questo tema che è stato nostro grande cavallo di battaglia degli anni passati. Questo ragazzo che ci ha scritto invece, Giuseppe, 30 anni, lavoro da circa 11 anni, ci racconta come ha creato il suo personale e la sua personale azienda individuale, in questo caso, perché non ho capito, ma mi pare che Giuseppe non sia sposato, ma volevo leggere una sua considerazione. Lui dice: molte persone quasi rimangono stupite dal fatto che un giovane possa avere questo modo di ragionare e gestire i propri soldi, lo ritengono esagerato e troppo pignolo. Io invece mi stupisco che ci si stupisca di ciò, perché non mi privo dei miei svaghi e questa gestione mi consente di pianificare le mie spese e le mie esigenze al meglio. Giuseppe Altamore, l'obiettivo è proprio questo, magari non arrivare a fare delle rinunce drastiche. No, infatti non si tratta di stringere la cinghia a tutti i costi, di tagliare indiscriminatamente, ma proprio di razionalizzare le spese. Mettendo i conti nero su bianco si riesce a capire se c'è qualcosa di esagerato, per esempio in una voce, qual è, diciamo, il punto su cui insistere maggiormente per razionalizzare appunto le uscite e poi alla fine proiettarsi nel futuro, come giustamente diceva prima il signor Roberto, in modo tale da poter fare una previsione anche, perché allora Giuseppe in questo momento è ancora giovane, ma bisogna pensare anche al momento in cui, al di là della pensione, ci sarà una necessità per la non autosufficienza. Sono tempi lontanissimi, ma quando poi diciamo ci si trova a ridosso, no, di quelle situazioni è troppo tardi per pensarci. Uh-huh. Ecco allora che nel libro ci sono tutta una serie di consigli che servono per valutare quali possono essere innanzitutto i costi e come coprirli. Giuseppe, io ti ringrazio molto per essere stato con noi questa mattina. Grazie a voi per l'invito, spero di non ti ho fatto nessuna domanda personale, perché poi sarebbe molto curioso anche sapere chi, come me anche, predica molto bene su questi temi, come si comporta poi nella vita, ma io insomma che faccio un uso abbastanza spregiudicato della carta di credito, lo confesso anche molto molto spesso, però poi tengo sotto controllo la spesa. Giuseppe, grazie ancora per essere stato con noi. Vi ricordo, Giuseppe Altamore è l'autore del libro Il bilancio familiare, che è uscito da qualche giorno, edito dal Sole 24 Ore da Giunti Editori, lo trovate in libreria, costa 10 euro ed è appartenente ad una collana Obiettivo Risparmio. L'altro libro è dedicato a mutui e prestiti di Nicola Borzi e noi ve lo presenteremo al più presto. Io saluto Mauro, un ascoltatore di Roma che non sono riuscito a fare intervenire. Ringrazio Valeria Coffaro, Gaia Romani per la collaborazione in redazione. Oggi Peter Bescapè in assistenza tecnica. Salva Danaio torna naturalmente domani. Ah, ve lo dico già, parleremo dell'aumento di capitale di Enel. Buona giornata.